Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Ok, carissimi amici di Archeologia Videoludica, benvenuti a questa puntata extra 01. Quindi ci saranno una serie di puntate extra che sicuramente faremo da qua fino alla fine dell'era di Archeologia Videoludica, che non sappiamo perfettamente quand'è. Questo è il primo esperimento di trasmissione in diretta, non sappiamo bene come sta andando, come si sente soprattutto. Abbiamo già fatto un po' di casini e abbiamo fatto anche un pizzico di ritardo. Qui con me, ovviamente, per semplificare le cose, non c'è l'intera banda di Archeologia Videoludica, ma c'è soltanto il distruggitore Marco Gualdi, al quale do il mio saluto. Ah, che bello, mi piace essere salutato di prima mattina. Di prima mattina, cioè, sì. Beh, non è proprio prima mattina, per me sì. Per te sì, ok. Il problema, fondamentalmente, è che non ho messo la sigletta del distruggitore, perché non volevo complicarmi la vita, perché è troppo difficile. Riuscire a parlare, a fare la regia senza, diciamo che oggi io avrò vita facile, ma molto facile, sparerò sulla croce rossa. Sì, no, ma non volevo veramente complicarmi la vita, perché sarebbe stato veramente un casino riuscire a fare sia la regia che fare il parlare, perché poi insomma, se ci avessi avuto magari soltanto da fare la regia, forse avrei potuto fare qualcosa di più articolato. Ok, sul live stream siamo in diretta, appunto, come dicevo. Se andate sul live stream tramite il link che abbiamo messo sulla pagina di Archeologia Videoludica, potete tranquillamente chattare insieme a noi sulla chat di live stream. Quindi, appunto, ci possono mandare a fare direttamente. Sì, facciamo un po' tipo Radio Chenoir. Ciao Nina, saluta la sora Franca che c'ha. Niente bestemmie, però, esatto. Mi raccomando. No, quello no, perché non le leggiamo. E quindi niente. Quindi, se volete, potete interagire. Chi ha il nostro contatto Skype può utilizzare anche quello. Però, insomma, non complicateci la vita anche da quel punto di vista. Ok, di che cosa si parla in questa puntata extra? Vorrei saperlo anche io. Ecco, infatti. No, tu lo sai, perché in realtà c'eri. Ah, davvero? Essendoci stato. Si parla di quella specie di mostra Retro Commodore che è stata fatta l'altra settimana, il 20 novembre, a Roma, via Concadoro. Tra l'altro ci ha permesso anche di scoprire un simpaticissimo mercatino di roba usata, dove c'era un Commodore 64 a 35 euro. 35 euro. Se funzionava, sarebbe stato. Ma sicuramente no, però se lo metti sotto un tavolo che pende, quello rimane dritto. Beh, figo però. Che strana osservazione. Perché? No, cioè, nel senso, uno Commodore 64, un polaccio, per fare l'equilibrio a tavolo, no? È brutto. L'equilibrio a tavolo. Vabbè, ma se non funziona, che ci fai? Togli il libro alla vista, dici, vedi, questo non funziona. Vedi, amici, vedi, 64 che non funziona. Metti sotto al tavolo, dà la sua utilità e soprattutto non fa le brutte figure, insomma. Ok, in questa fiera mostra, che non era un mercatino in realtà, cioè nel senso, non per quanto riguarda il discorso dei commodoriani, abbiamo visto diversi espositori e abbiamo avuto modo anche di intervistarli. In realtà, in questo episodio, tutto il materiale che noi avevamo registrato non lo abbiamo messo per ovvie ragioni anche di tempo. Troveremo il modo, probabilmente quando sarà poi pubblicato l'episodio in formato podcast, troveremo il modo di aggiungerle magari successivamente alla fine dell'episodio, perché metteremo tutto il resto dell'intervista. Perché vuoi che Simone Pizzi queste cose in qualche modo non me le ricicli? Cioè, ce l'ho, voglio ce dire, l'ha, perché non. Ringraziamo Andrea Milana, che ci ha fatto la base che sentite nel sottofondo, ovviamente, in questo episodio. Chiaramente, dato per in teoria per la brevità, non ci saranno brani musicali, non ci saranno suddivisioni di sorta, quindi andiamo avanti, insomma, iniziando praticamente questo nostro percorso in questa fiera Retro Commodore, iniziando il nostro racconto, ossia io e Marco usciti dalla macchina domenica 20 novembre alle ore 10 e mezza circa, durante il blocco del traffico sembravamo un po' di camminamorti, e insomma abbiamo già buttato giù le primissime impressioni che abbiamo avuto durante la fiera. Carissimi amici di Archeologia Videoludica, benvenuti a questo speciale. Siamo io, Simone Pizzi, e Marco Gualdi, il distruggitore. Ciao Marco. Ciao a tutti, stiamo camminando in mezzo alla strada come camminamorti, eccoci, perché è domenica, c'è il blocco del traffico, ma noi ce ne fottiamo, c'è anche gente che parcheggia in mezzo alla strada come se niente fosse, ma noi siamo contenti, andiamo per voi in un posto speciale che adesso vi dirà Simone Pizzi, vi racconterà perché ci andiamo, e soprattutto lo dirà anche a me. Allora sì, l'ho svegliato domenica mattina, oggi è il 20 di novembre, siamo a via Concadoro, dove c'è una specie di fiera mercatino dei prodotti Commodore, o vecchi prodotti Commodore, sì, dovrebbe essere stata organizzata dal gruppo Facebook Retro Commodore, e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo già fatto una prima capatina, in realtà ancora stavano allestendo, c'era... Piaciuto? Ci è piaciuto, ma che dici? Io non lo so. C'era nessuno. Nessuno, però adesso magari siamo ottimisti, è presto, è mattina, la gente dorme, c'è il blocco del traffico, come ho detto, insomma, magari adesso sarà arrivato qualcuno. Vabbè, andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo speciale per Archeologia Videoludica. Ecco, come giustamente si fa notare, già abbiamo avuto un piccolo problema di tempistica nel rientrare subito dopo questa prima parte, che dove abbiamo insomma introdotto. Intanto salutiamo Nino. Ciao Nino. Ciao Nino, ti vogliamo bene. Sei il nostro, diciamo, unico. Che era l'unico che era dispensato da svegliarsi di domenica, perché segue qualsiasi cosa, sì. Poteva anche dormire oggi. Ma no, in realtà se non ci fosse stato almeno Nino sarebbe stato, c'è scritto anche Furfanti, forse perché abbiamo fatto un po' di ritardo, non lo so. Va bene, scusate questi piccoli intoppini di tempo, insomma, ecco. Come abbiamo detto, Archeologia Videoludica in questa versione diretta sarà veramente una forma sperimentale, perché dobbiamo un po' esercitarci, perché un giorno probabilmente Italian Podcast Network potrebbe andare a finire insomma nell'etere streaming del web, direttamente in diretta con alcune delle trasmissioni. Ok, avete sentito insomma le notte che tu che parli insieme a Michele. Alle due di notte, certo. Fotogramma 24 potrebbe andare in diretta alle due di notte, perché come no? Programmi quelli più culturali di Rai 3, insomma. Esatto, esatto. Bellissimo. Va bene, avete sentito l'introduzione, quindi era una giornata insomma semidesertica, non ci abbiamo messo niente ad arrivare, camminavamo in mezzo alla strada come i camminamorti. Ma prima di andare avanti e iniziare ovviamente a sentire le prime interviste, e quindi anche a ricevere le illustrazioni dei pezzi importanti che ci stavano all'interno di questa fiera, ci siamo dimenticati, Marco, sempre, perché veramente l'emozione della diretta ci ha folgorati, di dare di dare i riferimenti della nostra trasmissione, che è archeologiavideoludica.net. Ci trovate su Facebook come Archeologia Videoludica, ci trovate su Twitter, che in questo momento non apriremo, sia chiaro, come Videoludica, e poi ovviamente c'è archeologiavideoludica@gmail.com per poterci contattare. Naturalmente è una trasmissione IPN, quindi ci trovate anche su italianpodcastnetwork.it. Allora, quindi andiamo a sentire Carlo Pastore. Carlo Pastore, che è un po', tu te lo ricordi, Carlo, no? Sì, sì, il dottore. The doctor. Bravo, certo, è anche medico. Quindi è una persona. Quindi il dottore cura te stesso, come molto si dice. Easy, molto rassicurante, è una persona molto sorridente con la sua barbetta. Quindi insomma, è una persona normale, tra l'altro. Cioè, certo. Una famiglia, è sposato. Questo lo diciamo perché tutti quelli che pensano che in realtà le persone che fanno queste cose sono dei pazzi folgorati. No. Poi il fatto che stia cercando di ibridare un Commodore 64 con un essere umano, quella è un'altra cosa. Questo mi ricorda quasi la puntata della volta scorsa. Va bene, allora andiamo a sentire Carlo Pastore. Questo è un pezzo insomma, diciamo, un po' più lungo, perché sicuramente abbiamo concentrato le nostre attenzioni su di lui in quanto protagonista, diciamo, di questo evento. Allora, come abbiamo detto, siamo qui all'interno di questa fiera mercato. Più mostra espositiva. Mostra espositiva, quindi non è mercato. No, non è assolutamente mercato. No. Ok. Allora, siamo con Carlo Pastore, uno degli organizzatori. Ok. Che nasce questa organizzazione da? Dalla passione per il retrocomputing e in realtà da una militanza nel retrocomputing di vecchia data, dai nostri 14-15 anni, con il nostro Commodore 64 iniziamo a muovere i primi passi nell'informatica. Okay. Tu hai quanti anni hai? 36. Quindi sei anche più giovane di me. Bene, ho capito. Però hai avuto la fortuna o l'occasione, avete avuto la fortuna o l'occasione di conservare queste macchine oppure le avete poi rimediate o ritrovate da qualche parte? Talune nostre dell'infanzia, della crescita, altre invece recuperate via via nei vari mercatini, col passaparola e con l'immancabile eBay. Beh, che poi tra l'altro penso sia anche abbastanza difficile, ho visto un Commodore PET l'altra settimana, però 180 euro e poi m'era già sfuggita di mano la cosa. Ok, allora parliamo intanto del gruppo che ha organizzato questo evento. Allora, il gruppo è legato al sito retrocommodore.com. Stiamo facendo nascere un'associazione no profit di retrocomputing e si chiamerà Retrocommodoriani. In realtà accoglierà anche altro rispetto a Commodore, sostanzialmente cercare di coagulare i vari appassionati di retrocomputing. Okay. Bene, e ci avete anche un gruppo su Facebook? Esattamente, sì, il gruppo è il medesimo Retrocommodore. Che è aperto? È aperto, ovviamente un gruppo aperto con possibilità di iscrizione assolutamente gratuita e cerchiamo di ripristinare la passione per questi vecchi oggetti ancora, con i quali ancora si possono fare delle applicazioni attuali. Allora, intanto ci mostri quello che abbiamo qua sul primo tavolino che vediamo. Allora, tavolino magari non è appropriato, però insomma. Beh, insomma, allora, sul primo tavolino abbiamo un Commodore 116, una versione del Commodore 16 prodotta dalla Commodore esclusivamente per il mercato tedesco e per l'est europeo. Okay. In realtà è analogo al normale Commodore 16, semplicemente cambia la tastiera in gomma e la scheda è ridotta. È cost reduced, è esattamente per la riduzione dei costi lo fecero. Fu però un flop totale. Beh, come tanti altri prodotti Commodore che ne determinarono la morte. Sì, esattamente. Un altro flop, ahimè, il Commodore 64 Game System. La divisione inglese della Commodore decise nel 1990 di tirar fuori un Commodore 64 customizzato senza tastiera, solo la possibilità di cartuccia, senza lettore cassetta né floppy disk. Quindi una console un po'. Una console però con lo stesso identico hardware del Commodore 64 dell'epoca. Peraltro, se si apre lo scatolotto, il case, si vede all'interno ancora il pettine per le cassette, non visibile all'esterno, ma chiuso all'interno dall'alluminio sostanzialmente. Certo. Che poi abbiamo nell'ultima puntata noi abbiamo affrontato la storia di Commodore dalla nascita fino al PET. E la questione dei videogiochi, poi abbiamo riflettuto anche dopo, ha un po' castrato un po' dopo queste macchine. Esattamente, è stata proprio quella a determinare la fine, nel senso il mercato del computer andava sempre più verso un uso professionale da ufficio e relegare ai soli videogames le proprie macchine ha significato decretarne la morte, anche perché contemporaneamente sui PC l'avvento delle schede grafiche multicolore accelerate ha determinato una messa fuori dal mercato dei concorrenti che non avevano queste caratteristiche. Anche perché l'Amiga era una signora macchina, no? Soprattutto il 2000. Assolutamente, ideale anche per le applicazioni d'ufficio, fu sviluppato semplicemente il mercato videoludico e fu senz'altro un errore. Okay. Questo? Questo è un Commodore 64 portatile, ben 11 kg di peso, è il Commodore 64 SX con un monitor da 5 pollici incorporato a colori ed un lettore di floppy. Aveva la possibilità anche di aggiungere un secondo lettore di floppy da 5 pollici e un quarto e aveva la tastiera incorporata e il maniglione per la trasportabilità. Più che portatile è un Commodore 64 da campo. Però diventavi cieco dopo. Esattamente. Zombie, puoi sopravvivere giocando con i tuoi giochi preferiti tra un'uccisione di zombie e l'altro. Esatto, il esatto. Tuo campo improvvisato è quello di fare. Non abbiamo portato quest'oggi il Commodore 65 perché prototipo molto sofferente rispetto all'umidità. Quindi ci avrei tenuto. La macchina controversa. Tra assolutamente, quella è una macchina mai rilasciata, solo 50 prototipi esistenti al mondo, di cui taluni funzionanti. Ed era un ibrido tra l'Amiga e il Commodore 64. Esatto, allora fu sviluppato internamente a Commodore. Esattamente. Però quindi non era un progetto Amiga, che era il progetto esterno, però perché fu scelto l'Amiga invece che il Commodore 65? Secondo te, Guillermo? Secondo me, perché aveva delle prospettive superiori per quanto riguarda la grafica, ma soprattutto il Commodore 65 fu sviluppato iniziato lo sviluppo nel 1988, quando l'Amiga già era presente. Fu una decisione tardiva a sviluppare il 65. Ma i soliti ritardi di Commodore. Ok, poi gli altri come facciamo? Andiamo lì su quest'altro tavolo. Beh, c'è Fabio Antimi, non so se... Allora, intanto vediamo l'ultimo pezzo. Ah, scusa, questo è il Commodore Max, versione giapponese del Commodore 64, sviluppata esclusivamente per il mercato giapponese. Un Commodore 64 ridotto con soli 4K RAM e un basic esterno su cartuccia. Non ho ancora capito perché l'hanno sviluppato. Qual è il senso di questo computer? Non lo so. Praticamente è la versione del 64, un po' VIC-20 per i giapponesi. Esattamente. Bravi giapponesi. Bravi giapponesi. Okay. Vuoi commentare il Commodore Max? Beh, è una bella macchina, sicuramente se c'hai comunque un mobile che pende, ce lo metti sotto e sta fermo. In Giappone si usava così, perlomeno. Ma funziona? Esattamente, sì, però il problema è il televisore con la frequenza giapponese. Già, non abbiamo il televisore adatto. Allora, vediamo questo tavolo, poi andiamo a sentire anche... Vai. Aspetta, che questo è carino, questo te lo sei dimenticato. Ah, questo, ho visto la foto oggi. Questo è lo schema del Commodore 64 Cost Reduced, l'ultima versione, la versione E, direttamente da Dave Haney. Questo chi l'ha preso? Io. Quindi sei un supereroe quasi. Quasi. Così potrebbe essere che l'hai postato sul gruppo stamattina. Esattamente. Okay, l'ho visto, esattamente. Allora. Okay. Sì, perfetto. Sì. Allora vediamo il resto dei marchi ingegni. Di tutto rispetto. Allora, qui abbiamo un'Amiga CD32. Questa è la versione senza il modulo MPEG. Lì sull'altro tavolo invece abbiamo la versione con il full motion video. Okay. Che era il modulo di codifica MPEG 1 dei video CD. Esattamente. Di video CD. E lì invece abbiamo una versione, una pilot release, una versione pilota di una scheda di Amiga 4000D, che era la stessa versione cost reduced, perché a un certo punto il problema e la preoccupazione di Commodore fu di abbattere i costi, dato che di soldini ne giravano sempre meno. Certo, ok. CD32, che è stata una macchina, una via di mezzo, cioè nel senso, sì, a livello di mercato risposta relativa, però risposta relativa è stato il canto del cigno di Commodore nel tentativo di salvare l'azienda, ma sarebbe servito venderne 400.000 unità. Natale del 93 furono vendute solo 100.000 unità, per cui non si riuscì a recuperare ossigeno per andare avanti. E pensare che ti dico una cosa, io pensavo che il canto del cigno fosse stato quello, no, che io avevo, tra l'altro. Sì, questo è stato il canto, okay, del cigno, perché è venuto dopo il... Cioè, no, quello è venuto prima. Prima è venuto 91, il CDTV e poi l'Amiga CD32, che è stata la fine. È stata la fine di tutto, sì. Invece questo è un Commodore Plus 4, 1984, il tentativo di soppiantare con la serie 264, Commodore 16 e Plus 4, di soppiantare il Commodore 64 e il VIC-20. Tentativo ovviamente fallito, anche perché, come potete vedere, anche i connettori per i joystick erano differenti, i connettori per le cassette. Tentativo di lanciare una nuova linea non retrocompatibile. Ovviamente la retrocompatibilità a quell'epoca sarebbe stato invece di grande successo, quasi fondamentale. Ok. Allora, per esempio, se noi abbiamo un computer che sta in soffitta da 20 anni, perché ce lo siamo dimenticato, perché ci è venuto in mente un giorno, accidenti, ho quel computer in soffitta, però a quel punto c'ho il terrore di prenderlo per vedere se funziona, quali possono essere i consigli che possiamo dare a uno che vuole riattivare o provare a riattivare uno di queste vecchie macchine senza fare danni? Allora, sicuramente deve verificare che non ci sia né polvere in eccesso sulla circonferenza dell'apparecchiatura, che non sia stata in un ambiente umido. Se è stato in un ambiente umido, prima ancora di accenderlo lo deve mettere semplicemente al sole. Okay. Deve riscaldare, al deve termosifone, sopra il termosifone. No, sopra il termosifone non è l'ideale. Il cammino, attaccato al cammino. Cioè, nel senso, tu dici che anche se ha preso umidità, se si asciuga prima di accenderlo può rifunzionare. Se lo accendi umido, sicuramente non funziona e non funzionerà più neanche dopo. Certo, è chiaro. Ok. Per esempio, ecco, lui diceva il fatto, io magari ho il terrore di tirarlo fuori. Questi sono comunque i due consigli principali. Principali, assolutamente i consigli principali. Non ce ne sono altri, perché il resto lo vedi semplicemente dando la scossa, accendendo, se funziona bene, altrimenti si apre e si vede perché non funziona. Perché si può anche intervenire volendo. Assolutamente. Sai, sì. Che tu sai, ci sono persone che si occupano della riparazione. Sì, ci sono, e non solo. L'unica vera difficoltà è ritrovare i pezzi di ricambio, gli integrati, e tramite il nostro sito è possibile anche mettersi in contatto con chi può avere dei fondi di magazzino, avere degli integrati di riserva e condividere l'esperienza cercando di riparare le vecchie macchine. A me personalmente è capitato di trovare un Commodore 16 in un vecchio negozio di riparazione TV sopra uno scaffale buttato dal 1983. Il negoziante me l'ha regalato, schermo nero all'accensione, lo vai ad aprire, mancava la CPU. CPU di ricambio messa su, ready, perfetto. Cioè, come fa a mancare una CPU? Cioè, evidentemente all'epoca è stato cannibalizzato in favore ad esempio di un Plus 4 o di un altro Commodore 16, e quello è rimasto senza CPU, teoricamente funzionante, sullo scaffale per 30 anni. Ok, innanzitutto Carlo Pastore è veramente un pozzo, non è solo l'animatore secondo me del gruppo, la persona che comunque tiene in piedi un po' tutta quanta la baracca, ma è veramente uno che ne sa proprio tante, e non soltanto, insomma, un grande ricercatore, una di quelle persone che insomma ne ha di roba, e questo bisogna riconoscere, insomma, un grande merito a Carlo. Ha sacrificato gran parte della sua famiglia per mettere i pezzi che compra a destra e a manca. Ok, dovremmo essere in streaming, perché so che ci sono stati forse dei problemi, vedo che noi perlomeno dalla chat siamo sconnessi, quindi se ci scrivete da lì purtroppo non sappiamo quello che ci state scrivendo, però penso o spero che insomma in questo momento continua ad andare avanti ovviamente lo streaming. Allora Marco, in merito a questa fiera che abbiamo fatto, soprattutto rispetto a questa uscita fine settimanale, esatto, domenicale, oltre a, cioè nel senso, oltre a quello che ha detto Carlo, sappiamo insomma che sono intervenute anche altre persone, dopo le ascoltiamo, tu ne hai scritto un articolo ovviamente. Sì, ho fatto un sunto molto serio, molto tecnico, ciò che è successo tutta quanta la giornata di domenica, quindi la mattinata fondamentalmente, in cui siamo appunto andati in questa bellissima mostra, abbiamo conosciuto questa gente che ci hanno raccontato determinate cose. Io ovviamente ho fatto un sunto, un saggio che potete tutti quanti andare a vedere su All Games Italia, oppure anche sul nostro, mi sembra, sito, se è stato pubblicato su IPN. Sì, ma soprattutto se andate su oggi, quindi All Games Italia, potrete vedere questo articolo, leggervelo, fare anche voi le vostre considerazioni e lasciare insulti vari. Nel mentre avete sentito la notifica Facebook del mio cellulare, che ovviamente funziona da monitor per lo streaming che stiamo facendo, e vedo insomma che siamo in diretta, quindi spero insomma che la cosa possa essere vera. Poi, insomma, mi sento molto John Connor che dice: state ascoltando questa trasmissione, allora siete della resistenza. Che bello. Ok, va bene, andiamo avanti. La cosa più affascinante, che veramente mi ha affascinato del racconto di Carlo, oltre al fatto il Commodore 65, di cui anche tu fai menzione, esatto, nell'articolo. Io mi finale fido, perché comunque voglio dare il beneficio del dubbio, però poi lo vorremo vedere. Lo vogliamo vedere. Carlo, sappi che un invito a pranzo, perché noi il Commodore 65, oramai l'hai detto, lo dobbiamo infatti vedere. Infatti non ho capito, ma funziona o no? Cioè, funziona, però è suscettibile all'umidità. È suscettibile all'umidità. Se io ci sposi sopra si offende. si incazza. Quello è un po' il concetto. Però chiaramente lo dobbiamo vedere, dobbiamo fotografarlo e reportaggiarlo. Posso fare una domanda? Cioè, magari puoi rispondere da qualche parte, Carlo, se sente. Ma col 65, ma che ci fai? Cioè, no, nel senso, proprio materiale, tu lo accendi, ci sono giochi, programmi, che ci sta? È un prototipo. Se tu lo sai, per esempio. No, non lo so, però possiamo chiederlo a Carlo la prossima infatti, volta. No, quello poi in realtà è un prototipo. Se tu c'hai il Commodore 64, il 128, l'Amiga, quello che è, qualcosa ci può fare, e funziona, qualcosa ci può far girare. Ma il 65 che è un prototipo? Ma io penso che in realtà credo che il vero problema cioè la vera questione sia il collezionismo, cioè sì, non è che credo che se c'hai il 64, sì è vero che il 64 c'hai 150 milioni di giochi, non è che ti metti a giocare al 64, no, però insomma credo che la questione sia relativa, anche bello sapere, vedete anche figo quello, c'è del software dimostrativo del Commodore 65, come ad esempio il fatto di visualizzare immagini ad alta risoluzione e a migliaia di colori, se non sbaglio, migliaia. Perché aveva, sì, perché dozzinaia, c'aveva la grafica HAM anche il Commodore 64, quindi Commodore 65, quindi credo, poi perché ovviamente questo poi lo approfondiremo quando saremo con Carlo Pastore a vedere il suo Commodore 65, perché chiaramente oramai dobbiamo vederlo. Ringraziamo e quindi torniamo a questo discorso qui, ringraziamo le persone come i collezionisti che abbiamo conosciuto, proprio perché in realtà la loro passione serve a perpetuare veramente la memoria. Da questo punto di vista, questo noi lo diciamo poi in una parte finale dove abbiamo registrato il nostro ultimo intervento, ma poi alla fine quello non lo passeremo perché è abbastanza inutile, faremo commenti alla fine, però il bello di queste storie è proprio il fatto che comunque ti permettono di mettere mano a cose anche più particolari, no? Non è solo il VIC-20, il Commodore 64 l'hai visto centinaia di volte, no? Però il CDTV ad esempio, che è stato menzionato, quanti di noi insomma realmente lo hanno potuto vedere o lo hanno anche potuto anche perché apprezzare. I vari proprietari della Commodore hanno cercato di farlo morire di bestemmie dopo che... no, sono morti loro di bestemmie, morti prima, sì è vero, sì. Però hanno cercato poi di portarseli nella tomba, non ci sono anche riusciti, se... sono sopravvissuti ai loro costruttori, pensa comunque. Anche se dal reparto editoriale di Italian Podcast Network mi fanno sapere che oramai la questione della morte di bestemmie è proprietà intellettuale dei Techno Tickets, quindi sarebbe il caso di inventarci una nuova dicitura. Andiamo avanti con un altro po' di contributi. Andiamo. No, Sebastiano Muscio, appassionato fin da bambino, ingegnere fin da piccolo, quindi ho sviluppato addirittura la mia tesi di laurea su Commodore 64 e ancora oggi, diciamo, ho qualche macchinetta anch'io e qualche progettino sviluppato e poi manutengo il sito retrocommodore.com. Quindi tu sei il manutentore del sito? Esatto, e anche sviluppatore di qualche progettino hardware. Ah, ok, cioè sviluppatore di progettini hardware in che senso? Ma abbiamo fatto qualche piccolo adattatore, trovate tutto il materiale sul sito, ci divertiamo anche a fare piccoli adattatori per i monitor, per queste cose. Ah, ok, tu dici per rendere usufruibile oggi queste macchine? Sì, certo, altrimenti diventerebbe molto complesso riuscire a vedere la grafica a colori, perché c'erano delle incompatibilità e andiamo sempre verso un periodo peggiore perché i monitor migliorano mentre invece le macchine hanno quegli standard che erano un po' antichi. Senti, una domanda, ma queste macchine che prima o poi raggiungeranno un livello d'usura e ovviamente non essendo chiaramente più in produzione, non essendo supportate praticamente credo da nessuno, che succederà un giorno quando si estingueranno piano piano? Il loro valore crescerà tantissimo, ci sono già dei pezzi su eBay che crescono terribilmente, ultimamente si è svolta un'asta su un rarissimo Commodore 65 che in un anno è salito da $8,000 a $16,000. Beh, il 65 in particolare perché era solo un prototipo poi. Esatto, ma sta succedendo a tutte le altre macchine che ci sono in giro, il collezionismo chiaramente è molto affezionato a queste macchine e il valore cresce, ecco. Ascolta, ma oltre a fare un'associazione per amore dei vecchi prodotti Commodore, del retro computing in generale, non ci dovrebbe essere anche una forma di difesa ovviamente poi di queste macchine, cioè in qualche maniera di riuscire sempre non soltanto a mostrarle ma a tenerle in vita? Assolutamente sì, anzi l'intenzione è quella di avvicinare magari qualche giovane alla programmazione, visto che oggi con i computer non si programma più ma si usano solo, quindi io ero abituato a lavorare col BASIC, anche con l'assembler, mi ci sono divertito tanto. Oggi secondo me sono pochissimi i ragazzi che si avvicinano alla programmazione, il massimo che fanno è o giocare o andare su internet, quindi ben pochi si avvicinano a questo mondo e l'idea è quella proprio di promuovere questo tipo di cultura che si è un po' persa. Allora, ciao, sono Fabrizio Picci, sono un appassionato di retrocomputing dagli anni 80, ho cominciato con il Commodore 64 a seguire con l'Amiga e sono un appassionato di software, quindi programmazione e tutto quello che riguarda appunto queste macchine degli anni 80. Anche tu programmi in BASIC? Io programmo un po' in tutto a dir la verità e oggi diciamo considerando appunto che queste macchine stanno un po' scomparendo ed diventa sempre più complicato trovarne di funzionanti, mi sto dedicando all'emulazione simulazione su macchine moderne. Ok, senti, e all'interno del gruppo barra associazione che ruolo hai? Ma io più che altro quello di aggiornamento appunto sulle nuove macchine che possono ospitare, diciamo, in emulazione il software di questi computer degli anni 80. Quindi specialista su iPad, su computer moderni, su Mac e quant'altro, insomma. Ecco, per esempio, per chi ha un PC bene o male di emulatori se ne trovano a bizzeffe. Chi è invece in un ambiente Mac, già la cosa comincia a diventare un po' più complicata. Guarda, questo non è proprio così, lo era fino a qualche anno fa. Ci sono dei progetti che si stanno portando avanti, tra cui c'era il progetto legato a PUI, che praticamente è il porting del WinUI per Amiga da PC. Di conseguenza praticamente anche sul Mac funziona bene, è seguito, c'è una community dietro che sviluppa continuamente, quindi diciamo che funziona perfettamente. Anche VIC-20 e Commodore 64 si trovano emulatori per Mac? Sì, c'è il CC64 che c'è la versione Mac, anche questo funziona molto bene, emulato molto bene, addirittura il 128, il VIC-20 e il Commodore 64 perfettamente. Allora, dicevi? Ciao, innanzitutto come ingegnere. Come ti chiami? Leonardo Forti, vecchio ingegnere, amante Commodore. Amante Commodore, collezionista? Sì, anche un po', sì, no, ho ancora delle cose Commodore, molte cose Commodore. Di quella storia dell'organo che funzionava con l'organo. Ah, sì, beh, io una delle mie applicazioni dell'epoca, dunque dell'85, è stato un sistema per registrare le esecuzioni degli organi a canne, diciamo eseguite dal vivo, e poi registrate sul Commodore, sui floppy disk del Commodore, e poi restituite su un organo a canne opportunamente attrezzato e interfacciato. Aspetta, così capiamo bene. È un po' complicato. Allora, innanzitutto, quanti anni hai? Io 65. Quindi eri già grandicello? Sì, quando ero grandicello. E okay, c'avevo anche uno stipendio per potermi comprare il Commodore, che allora era costosissimo. Perfetto, quindi sei stato uno sviluppato, cioè hai sviluppato, sì, applicazioni, non, sì, è che ti sei limitato ad avercelo a programmare cosettine in BASIC. Certo, applicazioni in assembler. Ok, soprattutto. Quindi dicevi, allora hai sviluppato un'applicazione utile alla registrazione. Alla registrazione delle esecuzioni dal vivo sugli organi a canne, sugli strumenti musicali, in particolare gli organi a canne. Ma registrazione intendi campionamento? No, registrazione dei tasti, tipo quello che fa il MIDI. Ah, ok. Cioè, okay, registrare quindi l'abbassamento dei vari tasti. Okay, fantastica sta cosa, e interessante. Quindi ho registrato l'opera Omnia fatta dal diciamo l'allievo prediletto di Fernando Germani, organista, praticamente, che ha suonato tutta l'opera di Bach su questo organo collegato a un Commodore, che ha comunque registrato la esecuzione di allora. Ok, quindi come se fosse un MIDI, già hai detto, sì, bene, sì, okay, sì, infatti, no, però di più, l'ho anche convertito poi in MIDI per renderlo fruibile, diciamo, oggi, insomma. Hai un sito o qualcosa sul quale? No. Quindi non è materiale che per i curiosi è consultabile. No. Diciamo, lo utilizzo io così, ma non più col Commodore, anche se può funzionare. E cioè, questi ragazzetti di questo gruppo Retro Commodore, ne ho associazione, come li segui? Beh, io ho conosciuto Carlo, che praticamente, insomma, mi pare l'animatore un po' di tutta la cosa, no? E che abita vicinissimo a me, tra l'altro, no? Perché io un certo giorno c'avevo una catasta di questi Commodore e accessori vari, dico, cioè, sono troppi, devo dar via quello. Ho chiamato, allora è arrivato lui, poi con la macchina se l'è caricata, si è portato via il 90%. Tutto a gratis, no? No, cifre simboliche. Ah, ok, bene. Abbiamo fatto questa amicizia. Sempre l'importante è dare un valore a queste cose. Il valore ce l'hanno, sicuramente. Gliel'ho dato, anzi, gli ho dato delle cose rare e strane che avevo solo io, tipo programmatori per gli EEPROM, interfacce MIDI, cose strane che esistevano allora, no? Che erano fatte da dittarelle così, da cantinari, e affinis. Quindi lui ha una serie di queste cose strane che lui ci tiene molto come collezionista. Quindi tu supporterai un po' il gruppo come grande saggio? Anche come saggio, sì, insomma. Beh, tu ne sai che delle cose ne sai, Sì, sì, beh, io allora l'ho presi non tanto per giocare, quanto perché era veramente il primo computer con cui uno poteva fare degli sviluppi seri, cioè non giochetti, no? Ma proprio una vera applicazione complessa e funzionale. molto prima dell'avvento dei PC, che oggi tutti ben sappiamo, sì, che ci hanno prestazioni 100.000 volte. E uno ci gioca soltanto. E non ci fa niente. Cioè io, se penso quello che ho potuto fare con quei 64K di memoria, no? Sì, sì. Quando oggi parliamo di giga, di tera e roba del genere, rode pure, no? Perché sono fortemente sottoutilizzate queste risorse. O meglio, sono utilizzate per cose inutili. O forse possiamo dire che, visto e considerate le risorse, erano sovrautilizzati i vecchi sistemi, perché quello ci avevamo e quello ci dovevamo far bastare. Esatto, fu il primo. C'era un po' di ingegno, no? L'ingegno ce ne voleva tanto, perché fra infilare tutto là dentro, in quei 64K, no? In quella velocità poi limitatissima, quindi era per forza necessario andare in assembler. Ok. Perché in BASIC non potevi fare. Ci provai a farlo in BASIC, ma era ridicolmente lento. Beh, sì, sì. Addirittura distorceva proprio l'esecuzione. Cioè l'esecuzione sembrava il grande organista diventava un principiante, che quando trovava più note da suonare se le perdeva, si rallentava, si spaventava, eccetera. Ecco. Sì, l'interprete BASIC del 64 PIC20 era lentino, e poi non era compilato, poi uscirono anche quelli compilati, no? Che sono un pochino più, ma niente a che fare, invece con l'assembler sono riuscito. Sì. Sono Marco. Marco? JJ Flash, okay. Insomma, su Facebook sono JJ Flash. Perfetto, ok. Ho portato quella sinergia di vecchio e di nuovo. Lì c'è un 64 collegato su fronte video, una scatoletta di recente concezione che fa l'upscaling del segnale a 1080x1024, insomma, per andare incontro al monitor lì che... In più dietro c'è una cartuccia, la 1541 Ultimate 2, che fa una marea di cose. Di base emula in tutto e per tutto un 1541, un drive in dischetti 1541. Tant'è che è collegato alla porta seriale del 64. Il 64 crede di star parlando con un drive vero, sta parlando invece con una macchinetta di concezione attuale. Simula perfino il caricamento della cassetta, simula due SID, due chip sonori del 64 eventualmente per suonare i SID in stereo. Che altro fa? Un'altra cosa ancora devo sperimentare, emula anche le espansioni di memoria, le REU, quindi potete dare 1-2 megabyte di roba, infatti ancora non ho provato. Ma chi è che ha sviluppato? Questo è un olandese che nel cosiddetto tempo libero costruisce e vende con una gran fatica. Cioè dice: io ho avuto abbastanza fortuna, io ho fatto l'ordine a giugno di quest'anno e mi è arrivata all'inizio di agosto, ma c'è gente che ha aspettato anche 5-6 mesi, perché lui costruisce in base agli ordini, non ha un magazzino, secondo gli ordini prende e fa fare i pezzi, che sono sempre pochissimi ovviamente, l'ordine di poche centinaia, quindi insomma è un po', cioè una grande pazienza per avere, ma vale la pena, perché è una cartuccia straordinaria, fa veramente una marea di cose e ne farà altre in futuro, perché c'ha il firmware aggiornabile. Ok, ma in sostanza, perché noi, Marco poi dopo fotograferà ovviamente per gli amici del podcast, chiaramente non sarà possibile, ci sarà nelle note dell'episodio, sì, le varie fotografie. In buona sostanza, che fa? Ma tutto l'ensemble? Sì, così. Beh, questo sta qui per ovviamente... Per esposizione va bene. Per esposizione, per rivivere, perché tutto questo si fa sempre per rivivere le memorie di un quarto di secolo fa, con una certa comodità, perché la cartuccia monta una micro SD, ci posso mettere tutti i dischetti che voglio. E su una 2 giga ce ne vanno veramente a migliaia, migliaia e migliaia, e quindi c'è la comodità di avere un caricamento istantaneo e poi di poter poi rivivere i giochi con la macchina vera, i joystick veri, o anche di sviluppare cose nuove, perché no? Cioè, perché dà anche la possibilità di salvare su dischetti virtuali o di turbo sulle cassette virtuali, se uno gli vuole far venire questo sfizio. Ok, quindi è che poi ovviamente è tutta un'altra cosa che dall'emulatore, no? Quindi... No, certo, questo è come se fosse un po' una via di mezzo, perché il drive sì, è emulato, però è emulato in hardware, con, sì, insomma, con l'FPGA, quindi o FGPA, mi ricordo mai com'è l'acronimo. Comunque è un modo moderno di riprodurre hardware di 20-25 anni fa. Certo. E quindi c'è la comodità della tecnologia di oggi, con l'effetto nostalgia, o anche lo sfizio del fare nuove cose, perché stanno uscendo anche, ho visto su internet, dei programmi per Windows che facilitano lo sviluppo di nuovi programmi in BASIC per i 64. 64. Stanno facendo queste sinergie continue. L'altro giorno ho saputo addirittura di un modem per farlo andare su internet e scambiare quindi immagini di dischetti su un repository centrale. Stanno facendo cose allucinanti per macchine cosiddette vecchie. Perché diciamo, quando c'eravamo il 64, noi giovani, c'era il modem, ma c'erano le BBS, non c'era internet. Sì, c'erano le BBS, io frequentavo il Videotel con il famoso adattatore telematico, il cartuccione che andava dietro, però già in tempi più recenti, stiamo parlando dell'89-90, sì, sì. Nell'84-85 non avevamo niente di tutto questo. In Inghilterra erano fortunati, ce l'avevano CompuServe, noi niente. Quindi siamo stati con le riviste, vediamo se questo mi pubblica sto listato, oppure guarda questo che ha fatto, oppure con amici, ah io ho scoperto questa. Beh, c'erano le riviste come liste, tu copiavi il... Sì, bisognava poi digitare a mano, ovviamente. Questa era una cosa che chissà non verrà mai più, perché ormai chi si però è stato tempi speciali comunque. Bellissimi, e là c'era la scoperta di sì. Tutto era una cosa in nascita, crescita, un continuo scoprire cose che con il PC non ci sta, cioè oramai non c'è più, lo dicevamo prima, infatti. Ormai è un'altra cosa. Tu vieni da? Forse. Vieni da? La Val d'Aosta, no, si capisce, sono di Napoli. No, ma vivo a Roma da ci siamo visti. E infatti dopo parliamo. È il motivo per cui sto cercando i 60 riparatori. Ah, ecco, lo dico anche al podcast. Io cerco riparatori di 64 biscottoni. Fabio Antimi. Ciao, di dove sei? Città di Castello, provincia di Perugia. Ah, ok, quindi non sei tanto lontano, insomma. No. Allora, il CD32, questa è una macchinetta un po' particolare, non so, non ricordo il successo di mercato che ha avuto, io ce l'ho avuta però in compenso. Cosa ci puoi dire? Allora, precisiamo che è un CD-TV. CD-TV, scusa, ok, scusa, ho sbagliato. È precedente al CD32, come anno di uscita del 90, siamo all'intorno del 90, ed è stata praticamente la prima macchina che ha implementato il formato CD a livello multimediale, cioè a livello di console da mettere in sala in casa. Io ricordo costava uno sproposito di lire, però lo acquistai ugualmente. Però il parco software non è stato poi così. No, però dobbiamo dire che ci giravano molti software che erano disponibili allora per l'Amiga 500. Infatti quello. Esatto. Poi aveva anche la caratteristica che funzionava come video karaoke. A quei tempi la Philips aveva implementato lo standard, però non aveva ancora pubblicato o messo in vendita una macchina che forniva questo servizio. E qui c'era già la funzionalità che, inserendo un CD audio in formato CD text, c'erano allora, mandava grafica con i titoli del sottotitolata, sì, con il testo del brano audio. Infatti io ricordo nella demo che c'era nell'apparecchio, ovviamente, o cioè il CD demo, che c'era questa dicitura CD audio più CD più G, che non si era però chiaro che cosa fossero. Sì, infatti allora c'erano, magari molti non sapevano neanche cosa fosse, ma in realtà noi sappiamo, noi che ci possiamo di più, ci mettiamo. Tu ne hai mai visto uno? Sì, ora non ce l'ho qui dietro, però ne ho provato uno per vedere se funziona e ho visto, va tranquillamente. Ok, che altro, cioè tu hai questa? Sì, io ho questa macchina qua, poi ho portato un Commodore VIC-20. Ah, primo grande amore, perché purtroppo per il PET ero troppo giovane, però parliamo del Commodore VIC-20, no? Una bella signora macchina, questa l'hai conservata tu oppure sei riuscito poi a reperirla in qualche modo? Allora, questa l'ho reperita, comunque devo dire che è stato il mio primo computer. Ok, infatti. Esatto. Però a quei tempi, essendo io ero 14enne, praticamente c'era stata la famosa offerta per passare al Commodore 64, dove veniva ritirato il VIC-20 e c'era uno sconto per l'acquisto del 64. No, non lo sapevo questa cosa. A quei tempi c'era, io non essendo... Noi non avremmo potuto immaginare quello che questi computer sarebbero. L'avrei conservato volentieri, certo, pensandoci adesso. Funziona tutto ancora correttamente? Sì, funzionano tranquillamente. Ora io sono arrivato un po' in ritardo, devo ancora finire di allestire. Vabbè, allora ti lascio. Però non c'è problema. Okay. Praticamente questa la macchina era l'antesignano, no, del Commodore 64, però già aveva lo stesso BASIC, aveva già un'impronta, diciamo, di quello che sarà poi il successo del 64. Ed era diventato anche famoso perché era pubblicizzato dal famoso capitano James T. Kirk, sì, di William Price. Sì. E con William Shatner ritorniamo in diretta. Perché Star Trek c'è sempre. C'è sempre Star Trek. Dentro i nostri cuori, nei cuori di Nino che ci sta seguendo ovviamente nella chat, ci seguono anche, pensa, ben 10 ascoltatori. Con punte di 11. Però uno se n'è andato sdegnato, probabilmente. Sdegnato, esatto. Dice, ma che è sta palla? E salutiamo anche Andrea Milana che è venuto ovviamente nella chat di live stream. Grazie Andrea anche comunque del supporto, soprattutto per dire che l'audio pare che sia buono. Questa è una cosa che siamo molto contenti. Ci conforta tantissimo. Marco Paglia che dice. Dice sulla morte di bestemmie. Sì, dice che la rubrica morte di bestemmie è un patrimonio dell'umanità e dovrebbe essere utilizzato da tutti. Quindi. Ok, allora abbiamo ascoltato JJ Flash che si era preoccupato in precedenza parlando con me su Facebook del fatto che dall'articolo di Marco sembrava che noi non avessimo capito bene di che cosa si trattava quell'emulatore di device esterni, insomma, per il Commodore 64, il Commodore Amiga, ora adesso neanche mi ricordo. Io spero, insomma, che adesso si sia ben capito, insomma, dal suo intervento. Salutiamo ovviamente anche l'amico di Città di Castello che anche lui aveva un CD TV, che ovviamente tra l'altro mi ha fatto anche molto piacere perché ho visto che non sono stato l'unico ad averlo acquistato. Essere stato gabbolato da Commodore. Esatto, esatto. Non ho mai visto un CD più G e né un CD TXT, però voglio dire, comunque qualche giochino simpatico per quella macchinina c'era, però sicuramente è stato un altro dei grandi passi falsi, forse troppo avveniristico per l'epoca e soprattutto perché ancora le tecnologie non supportavano un certo tipo di multimedialità. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No, ma aggiungere grosse cose no, perché comunque poi alla fine i nostri simpatici intervistati, tra cui anche il massone che salutiamo tantissimo, l'ingegnere che faceva suonare con col computer gli organi a canne, chissà per quale rito satanico, però insomma comunque alla fine era una bella cosa, insomma, perché alla fine ha utilizzato un computer per giocare, per fare qualche altra cosa. Perché se comprava il computer più serio, però vabbè, insomma, questa è una domanda mia magari. Beh, però noi quando abbiamo iniziato archeologia videoludica l'abbiamo sempre detto, il fascino di riuscire a fare cose che oggi possono sembrare delle sciocchezze ma che allora per il tipo di macchine erano sicuramente delle cose straordinarie, e devo dire anche la creatività nell'invenzione di applicazione, nel senso che non è che hai fatto un database per la casa o hai fatto un'applicazione che poteva essere utile per fare dei calcoli, ottenere le finanze, che ne so, di un'azienda. Hai fatto una cosa per registrare i tasti di un organo, cioè è l'antesignano del MIDI. Poi tra l'altro, continuando a parlarci, abbiamo capito che lui aveva comunque altre strumentazioni, anche hardware relative al MIDI, quindi credo che sia stata, insomma, una sua passione quella della, certo, della poi musica. Ha fatto queste registrazioni e se le tiene per lui, non le darà mai a nessuno. Dice che non sono ovviamente divulgabili, o perlomeno comunque lui non fa quest'opera di divulgazione, non ha un sito, probabilmente non ha neanche il tempo, però avremo modo anche qui, insomma, di andare a esplorare, perché sicuramente il capitolo del Commodore 64, così come il capitolo dell'Amiga, porterà via, insomma, diverse puntate di archeologia videoludica e sicuramente anche svariati speciali, no? Tu, certo, ce l'avevi. Quindi tocca svegliarsi presto altre domeniche. Questo mi stai a dire. Sì, potremmo provare una volta anche a fare. Noi l'abbiamo fatto di domenica mattina per limitare il numero di ascoltatori, danni, visto che tra l'altro sempre Andrea Milana ci dice che si sta facendo un bel caffè in Finlandia, quindi abbiamo anche un pubblico internazionale, dobbiamo. Tornando un attimo velocemente, prima di andare poi al personaggio più ricco, anche se non specificatamente legato al mondo Commodore, che abbiamo subito dopo, al fatto che abbiamo fatto la domanda a Carlo Pastore sul fatto del come tirare fuori vecchie applicazioni, vecchi hardware che sono magari lì in soffitta da 20 anni, quello secondo me è stato, svampare, senza farli svampare, quello è stato un momento interessante, tra l'altro è uscito fuori anche per una questione di esperienza diretta, perché comunque Marco si è posto il problema del suo Atari 800, perché un 800 po' la curiosità XL, XL, che è un po' la curiosità di tirarlo fuori, accenderlo, magari fare dei video pure perché io ho una partita ancora in sospeso cioè, i salvataggi anni. I salvataggi vecchi, cioè. E giustamente per evitare insomma di fare cazzatelle abbiamo chiesto e quindi anche quelli sono preziosissimi suggerimenti. Ma andiamo subito a sentire un altro personaggio che diciamo che più che un semplice collezionista è una persona che vive praticamente di questo. Sì, è un brandizzato umano praticamente. Sì, no? Sì, praticamente lui non ha una casa, ha praticamente un museo dentro casa sua, anche se come ho detto non stiamo parlando di prodotti Commodore, ma stiamo parlando di prevalentemente di console, di videogiochi, anche se è una cosa che ci interessa ugualmente perché comunque sono alcune cose di cui abbiamo già parlato, poi dopo magari lo diciamo, no? Così facciamo le nostre simpatiche battute come abbiamo fatto più volte. Però insomma vabbè, cose di cui abbiamo già parlato e cose di cui ovviamente prima o poi parleremo, giusto? Certo, innanzitutto rivedremo i bilancini pesanani, rivedremo i dildos prototipi, vi racconterà un po' di cose. Vabbè, chi ha ascoltato Archeologia Videoludica già dovrebbe aver intuito di cosa stiamo parlando, perché sono cose che abbiamo detto quando ne abbiamo. Perché poi questo ragazzo ha un blog, mi sembra, no? O un sito? Blog. Allora, lui ha un blog suo che presto diventerà un portale, poi lo dice anche durante l'intervista, e poi segue anche un altro sito come redattore, quindi insomma vabbè, adesso ascoltiamoci ci racconterà questa intervista, ci sentiamo e poi ovviamente quando questa puntata sarà pubblicata come podcast avrete modo di ascoltare anzi di leggere le note dell'episodio. Fabio Danna di Roma, gestisco due siti, Archeoludica e Retro Gaming History, sono redattore. Ok, ci parli intanto di tutte e due al volo? Sì, allora guarda, Retro Gaming History è un sito che parla di storia del retro gaming e anche del retro computing, dagli albori fino da Pong, diciamo i primi giochi in assoluto, portatili o non portatili, fino alle console più moderne. Okay. Infatti anche i sistemi moderni come PlayStation 3, Wii e 360 li trattiamo comunque pur essendo un sito di retro game. E l'altro? E l'altro invece è Archeoludica, che nascerà l'anno prossimo. Per il momento è solamente un blog, mm-hmm, in cui teniamo praticamente le fila di tutte le fiere che facciamo in Italia: il Video Game History che si fa a Monza, Retro Commodore Day che è quello dove siamo adesso, e anche le varie fiere, tra cui c'è domenica prossima chi vuole venire a Firenze, il Firenze Vintage Beat. Sì, infatti, probabilmente. Che è organizzato sui retro computing, ma quest'anno esclusivamente per i videogiochi. Ok, senti, quindi Archeoludica è tipo un'associazione, no? No, vorremmo fare un'associazione culturale, però per il momento è soltanto un sito che cerca di fare la storia comunque dei computer. Che hai con dei collaboratori, suppongo? Sì, siamo io, Andrea Pastore e Daniele Nunziati, che è il campione europeo di Tetris. Lui ha realizzato praticamente con un gioco comprato la mattina, lui dopo 4 ore aveva già realizzato il record europeo. Un mostro? È un mostro di Tetris. Ok, ma magari un giorno cercheremo di contattarlo. Senti, io vedo che qui tu sei quello con la collezione più ampia. E ne vogliamo parlare un po'? Sì, in realtà ho portato una piccola parte della collezione perché gli spazi erano quelli che erano e purtroppo non c'era modo di portarle tutte. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei un collezionista, quindi, sì, io sono, no? Sia collezionista che storico di videogiochi. Ok, quindi come collezionista tu praticamente un po' sono cose probabilmente che avevi e un po' sono cose che hai dovuto rimediare. Qualcuna l'ho presa recentemente, però la maggior parte le avevo già dall'epoca. Mm. Quindi le hai conservate? Sì, le ho conservate tutte con tanto di scatoletta, sono sempre stato molto preciso su questo. Questa è una fortuna. Tu quanti anni hai? Io ne ho 37. Mm. E quindi bene o male la storia dei videogiochi l'ho vissuta quasi tutta, dagli anni 70, agli anni 80, soprattutto il boom degli anni 90. Esatto. Ok, quindi che ci hai portato qua? No, qui ho portato... Qui vedo delle perle storiche incredibili. Ho portato delle macchine molto antiche che sono... La prima è praticamente la prima console in assoluto prodotta dalla Nintendo nel 1977. Abbiamo parlato del famoso... Color TV Game. Esatto. Questo in particolare esposto è il Color TV Game 15, che è il nuovo modello con i joypad stagionali insaccabili, perché Shigeru Miyamoto, che all'epoca non era ancora famoso, ha visto che quando due giocatori stavano vicini, col fatto che fossero attaccate le levette direttamente alla macchina, si davano intanto delle testate, degli spintoni, e quindi ha avuto la geniale idea, poi clonata ovviamente da tutti gli altri sistemi, di mettere dei fili e poter staccare questi controller in modo da allontanare i giocatori. Ok, per i nostri ascoltatori, nella prima puntata della seconda stagione ne abbiamo parlato, perché ovviamente è stata, credo, la prima console di Nintendo. Della Nintendo, esatto, la prima produzione in assoluto della Nintendo. Poi io qui vedo l'Odyssey. E poi questo è il Philips Odyssey, che in pratica è stata la prima console Pong in versione europea. Quindi l'Europa ha conosciuto il Pong la prima volta esclusivamente con questo, perché c'era già l'Atari Pong, però doveva essere importato dagli Stati Uniti, mentre questo invece è proprio una produzione olandese, quindi ufficialmente la prima console europea che si dedica al Pong. E anche di questo, insomma, abbiamo parlato, credo che per poi i retro giocatori. Sì, il Fairchild. Grande, grande. Questo è stato proprio il tema della prima puntata della seconda stagione. Joystick equivoci che abbiamo parlato, insomma, che sono stupendi. Quelli che bisogna spingere in basso. Eccoli qui. Ok. Allora, ce ne parli. Hanno fra l'altro ispirato i controller del Nintendo Wii, che molti pensano che sia una cosa che Nintendo ha inventato dal nulla, ma in realtà si è rifatta proprio agli albori, andando addirittura alla prima console a cartucce. Quindi Fairchild Channel F, giusto? E questo è un sistema molto importante, perché in pratica tutti pensano che la prima console a cartucce sia stata l'Atari 2006, mentre invece le cartucce sono state inventate esclusivamente su questa console da un ingegnere che poi purtroppo non ha avuto gloria, perché Atari è riuscita a vendere meglio il suo sistema chiamandolo videocomputer system, ed è stata una cosa psicologica, perché all'epoca c'era la maniera dei computer, tutti volevano un computer anche senza sapere in realtà cosa fosse. Dice, il computer è una cosa nuova, negli anni 80 la voglio, fine anni 70, quindi videocomputer system rispetto a una console che si chiamava solo gioco sembrava una cosa molto più seria, mentre in realtà l'Atari 2006 all'epoca VCS, videocomputer system, era solamente un clone del Fairchild. Esatto. Poi io vedo qua in mezzo una signora, un signor prodotto, ancora ne dobbiamo parlare ovviamente nel nostro racconto storico, però è stato, insomma, non so quanto commercialmente abbia funzionato in Italia, però era un bel oggetto. Ma diciamo che commercialmente questo si tratta... Di che parliamo? Parliamo del Vectrex, che è stato ideato dalla Smith & Jenner, però poi prodotto dalla MB, che è una nota multinazionale del giocattolo, che all'epoca faceva principalmente giocattoli, e ha deciso di buttarsi anche lei nel mercato console. Però il problema qual è stato? Che si è buttata nel mercato console esattamente nella grande crisi dei videogiochi, quella pre-Nintendo 8-bit, per chi sa esattamente la storia, e quindi il Vectrex si trovava in concorrenza con circa 20 sistemi diversi. Ovviamente proporre 20 sistemi diversi a un pubblico che ancora i videogiochi non li aveva ben assimilati era un suicidio commerciale, e alla fine sono sopravvissuti pochissimi sistemi. Il primo crollo è dovuto proprio dal fatto che c'era un'abbondanza. Più che altro, oltre all'abbondanza, c'era soprattutto una scarsità del software, perché chiunque, vedendo che era un prodotto nuovo il videogioco, ci si buttava anche non sapendo assolutamente nulla. Infatti c'è la leggenda che in pratica un gioco chiamato E.T., ispirato al film, è stato programmato alla meno peggio in 2 settimane da un programmatore fra l'altro anche molto bravo, che in altri giochi si è dimostrato molto valido, però il tempo risicato per farlo uscire esclusivamente insieme al film E.T. ha prodotto un gioco non molto giocabile, uno dei più brutti giochi che fu seppellito, che si narra è passato alla storia come il peggior gioco mai prodotto. E si narra che Atari sotto banco avesse preso dei camion e avesse seppellito tutte queste milioni di cartucce invendute nel deserto del Nevada di nascosto, senza far sapere nulla. Si narra questa leggenda, poi qualcuno dice che è vero. Se sia vero o non sia vero non si è mai saputo, anche Atari ha sempre negato tutto. L'unica cosa che sappiamo che è vero è che Atari aveva l'abitudine di stampare milioni di cartucce quando non sapeva il successo del programma. La cosa assurda è che praticamente ha stampato più cartucce di E.T. di quanti Atari 2006 fossero realmente nelle case degli americani, e quindi chiaramente ogni americano avrebbe dovuto comprare almeno 2 copie di E.T. È una follia commerciale che neanche adesso si farebbe mai. Poi non ci chiediamo perché Atari, insomma, è finita a fare solo il distributore di software. E poi ecco, Atari ha una storia particolare, perché in pratica è una software house, in realtà è anche hardware house ufficialmente morta, però poi è stata ripresa tra vari proprietari, ok, hanno ripreso il marchio Atari, ma in realtà l'Atari di adesso, che qualcuno vede Atari Games, non c'entra nulla con l'Atari storica, perché in realtà è una casa francese che ha assorbito il marchio e cerca di riproporre i franchise degli anni 80, certe volte anche con successo. E fa distribuzione, poi fondamentalmente. E ufficialmente l'unico Atari realmente prodotto in tempi recenti è l'Atari Flashback, che praticamente è una piccola console che ha la circuiteria dell'Atari 2006 e preinstallati 30 giochi dell'Atari 2006. Quindi è una sorta di... unico prodotto ufficialmente creato dalla vecchia Atari, dai vecchi soci che hanno messo dei fondi e hanno prodotto questa Atari Flashback. Ha voluto metterci parola anche sì, sì, chiaro, noi abbiamo raccontato la storia, insomma, che dice che lui l'ha inventata insieme a Bush, sì, la storia segreta di Atari, che in realtà poi alla fine non sappiamo quanto pure lì sia leggenda o no. Poi cos'altro? E poi abbiamo, manca purtroppo il Nintendo 8-bit, che è stato quello che ufficialmente ha salvato il mercato dalla grande crisi, perché Nintendo ha detto: se i giochi di poca qualità hanno creato la morte del mercato, dobbiamo puntare su pochi giochi molto di qualità, e quindi ha fatto una selezione, ha creato il famoso bollino di qualità Nintendo, che tuttora viene propinato sulle console attuali anche per giochi non proprio di qualità. E grazie a questo bollino, a questo controllo di qualità, il mercato è riuscito a riemergere completamente. Il Nintendo 8-bit è diventata la console di riferimento anche in America. Questo è molto importante, perché una console giapponese era la prima volta che in America aveva realmente successo, e da lì è nato praticamente il successo della Nintendo, anche grazie ai personaggi di Miyamoto, Mario, Zelda o Metroid, che comunque non è prodotto da Miyamoto, che sono tuttora il cavallo della Nintendo. Senti, tu dicevi che hai ancora una vasta collezione a casa. Sì, io praticamente, diciamo, le console ce le ho quasi tutte quelle prodotte, tranne alcune. Su retro computing sono un po' meno fornito, perché comunque sono stati meno protagonisti del videogioco, perché la maggior parte sono stati fatti per software di produzione. Quindi tu sei comunque più orientato esatto al mondo console. Ok, senti, la domanda più stupida che ti faccio, poi ti saluto, è: ma tutta sta roba tu la tieni? Io ho una camera dedicata ai videogiochi, che vivono esclusivamente questi giochi ammucchiatissimi, ovviamente. Sì, esatto. In realtà noi siamo venuti qui per scoprire dove si mettono le cose, perché lui vuole cominciare ad accumularla, però o viene ucciso dalla moglie o deve trovare un posto dove... Esatto. Non ha un deserto dove seppellirle, per cui deve organizzare lo spazio. C'è un mio amico che è un grande collezionista di videogiochi, uno dei più grandi di Roma, che aveva anche lui la camera dei videogiochi, poi ha avuto la sfortuna di avere un bambino all'improvviso e quindi ha dovuto sfortuna, disperato, perché i giochi poverini sono finiti in un'enorme cantina e il bambino si è appropriato della cameretta. Purtroppo succede. Senti, allora ricordiamo i due siti: retrogaminghistory.com e archeoludica.blogspot.com, che per il momento è un blog, ma dall'anno prossimo diventerà un sito vero e proprio. Ok. E rientriamo anche dopo questa ennesima sessione. Allora salutiamo intanto il nostro amico di Archeoludica, che insomma, anche se secondo me da quelli che sono le nostre consultazioni ci sono alcune cose sulle quali si potrebbe un po' discutere, ma da un punto di vista prettamente cronologico, questione di dettagli e di nozioni, comunque è una persona che ne sa veramente tanto, soprattutto per quanto riguarda la storia delle console e dei videogiochi. Chiaramente bisogna dire una cosa, che storico del videogioco non è proprio un lavoro, non è proprio un ruolo. Allora anche noi siamo storici del videogioco, appassionati e quindi conoscenti del mondo dei videogiochi, chiaramente. Quindi sai, storico del videogioco, insomma, mi sembra, però insomma sicuramente è una persona con la quale avremo a che fare anche in un prossimo futuro. Abbiamo visto che ci sono diversi ascoltatori che hanno seguito la trasmissione tramite la chat di Facebook. Alcuni che sono anche morti di bestemmia da soli. Bestemmiati a morte da soli. Che sto facendo? Due ascoltatori che se ne sono andati. Hanno detto: no, guarda, veramente sono sdegnato di questo schifo che stanno trasmettendo, ma in realtà sono cose veramente molto interessantissime. Assai, ma di più anche. È importante. Quindi salutiamo Alex Raccuglia, salutiamo anche Stefano Biggio. Che, ciao Stefano, ti vogliamo bene. Lui non è qui perché gli interessa la nostra trasmissione, ma perché essendo presente noi l'avremmo citato e quindi avremmo fatto pubblicità al suo podcast. Ma guarda un po', questa adesso volta... infatti saranno uno di meno fra qualche secondo, perché abbiamo citato adesso appena gli diremo Retrocast, lui dice: basta, okay, hanno detto, ciao, non posso ho andare. Avuto la mia soddisfazione e andrò via. Ok, e anche questa sessione, insomma, di, io penso la carrellata, allora lì abbiamo visto Il Nintendo Color, Game Color 15 che insomma che la bilancina pesa nani, esatto, quella console a forma arancione con la posizione per mettere i piedi. Tu prendi il nanetto, ce lo metti sopra e ti dice quanto pesa, te lo pesa al grammo proprio. Poi abbiamo visto il Fairchild Channel F, che insomma ne abbiamo parlato anche quello, infatti. E l'Odyssey, insomma l'Odyssey Il Fairchild non aveva la vibrazione al joystick. Quella penso l'abbiano messa dopo. Ma forse perché era disattivato. Ma non lo so, non penso. In quel momento si pensava più che funzionasse così a mano. Insomma, poi la vibrazione è venuta dopo, molto dopo. Ecco, infatti vediamo che Stefano ci conferma il fatto che la pubblicità gratuita l'abbiamo fatta, quindi per lui. Attenzione, infatti se n'è andato. Ok. Cioè, no, allora, se dovesse tornare qui da qualche parte, magari, che non so, perché spera che lo citiamo di nuovo, il dottor Jones sta facendo degli scavi. Sarebbe dovuto venire, solo che io gli ho premuto la leva sbagliata e quindi è rimasto un attimo imprigionato, ma poi esce, ce la fa. Va bene, allora, come detto, in realtà c'erano anche altre realtà che avrebbero potuto, insomma, cioè ci sono forse un paio di interviste che abbiamo saltato, che poi metteremo magari a conclusione della sigla, perché Simone prima o poi te le fa vedere, cioè te ricicla, te le fa vedere, peggio della Rai proprio, in qualche modo te la fa vedere. Chiaro, no, dicevo, perché mi interrompi che poi perdo il filo? Perché io sono noi qui possiamo fare come facciamo di solito, interrompiamo e poi io non sono il bonista, sono il distruggitore. Sei un rompicoglione. Esatto. Ho detto ok, va bene, legheremo ovviamente successivamente alla sigla di questa registrazione nella versione che manderemo in podcast tramite il feed di Italian Podcast Network e di Archeologia Videoludica, ovviamente come sempre, per non fare torto a nessuno, perché chiaramente insomma sono stati tutti molto gentili e si sono tutti prestati a dire comunque a presentare le macchine che avevano, e soprattutto hanno anche dedicato il loro tempo a noi. L'unica cosa che chiaramente, purtroppo, come avete visto, queste sezioni di interviste poi alla fine non erano brevissime, e tagliuzzare qua e là insomma sarebbe stato un po' un piccolo crimine. Ok, allora adesso andiamo con l'ultimo pezzettino, che è praticamente torniamo con Carlo Pastore, che secondo me è stato un po' l'anima, il deus ex insomma di questa. Il cognome dice tutto, insomma. Pastore. Lui è il pastore del Commodore. Il pastore dei retro Commodore. Che tra l'altro io gli auguro insomma di far sviluppare la sua idea, la sua associazione, perché comunque è veramente un grande piacere vedere il fatto. Poi tra l'altro era giusto appunto nata domenica scorsa, no? hanno l'associazione le o basi. La stavano facendo nascere, adesso non mi ricordo, non potete pretendere che, cioè non sono un cronista di così grande alto livello. La cosa che so è che comunque se voi andate oltre sul loro sito retrocommodore.com, ma anche retrocommodore su Facebook, so che c'era in mente anche di organizzare una cena per gli amici di Roma, e questo potrebbe anche essere insomma un'occasione magari per il Commodore 65. Lo deve portare a tavola il Commodore 65, ce lo mangiamo poi. Va bene, allora ci sentiamo i saluti finali di Carlo Pastore e poi ritorniamo anche noi magari per fare insomma le nostre conclusioni, e poi salutare anche gli amici che sono stati così gentili da essere stati presenti in questa nostra prima diretta sperimentale di Italian Podcast Network nell'insieme di Archeologia Videoludica, ovviamente nello specifico. Allora Carlo, insomma noi purtroppo possiamo partecipare solo mezza giornata, ho visto insomma che di materiale ne sta arrivando, quindi anche un po' in ritardo visto anche il blocco, perché siamo stati sfortunati. Assolutamente oggi, diciamo, sì, assolutamente sì, oggi con il blocco del traffico l'affluenza è stata minore del previsto, ma comunque un'ottima affluenza e un ottimo interesse per quello che è una passione comune. Allora diciamolo, la gente entra, è abbastanza incuriosita, chi ha dei revival storici personali, chi ha delle cose, però insomma dietro la cosa che forse tanti non capiscono e che invece a noi ci affascina è che dietro queste macchine ci sta veramente una storia, che può essere personale come può essere poi in realtà proprio anche prettamente tecnica, e quindi il nostro compito è quello di continuare a mandarla avanti questa storia. Assolutamente, di tramandare quello che è stato il passato, sì, e proiettarlo verso il futuro. Di integrati di ricambio ce ne abbiamo parecchi, quindi ancora per qualche anno siamo sicuramente tranquilli che le nostre macchine funzioneranno. Funzioneranno. Quindi poi alla fine, diciamo, è un amore. Assolutamente sì, è un hobby, un amore e anche un po' un rivivere quello che è stato il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Ok, per chiudere allora ricordiamo il sito e ricordiamo e diciamo anche perché la gente deve venire obbligatoriamente sul sito. Deve venire obbligatoriamente per cercare qualcosina da recuperare e ripristinare e rimettere a posto qualche vecchio computer, ma soprattutto per vedere come l'evoluzione dell'informatica si è rapidamente trasformata in quello che oggi i dispositivi di uso comune, per cui il sito è www.retrocommodore.com, vi aspettiamo numerosi. Ed è anche un modo per far parte di una community che ha una passione comune e fare anche nuove amicizie. Assolutamente, come abbiamo fatto noi oggi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, ti ringrazio, ciao. Grazie a te. Ok, rientriamo. Siamo tornati sì, improvvisamente. Non ve l'aspettavate, eh? Pensavate che era finita, invece no. Mentre che Stefano sta facendo polemica sulla nostra chat sterile e gratuita. Sterile e gratuita, perché dice che noi siamo quelli, sempre quelli che dicono male e parlano male degli altri, ma in realtà, come si dice, a parlare male si fa sempre in tempo. E soprattutto dillo Stefano che ti avevo fatto pubblicità e te ne volevi andare. Grazie, sta sbafo. A sbafo, come si dice, insomma. Vabbè, stiamo facendo pubblicità a tanti. Ok. Risalutiamo anche Alex Raccuglia che gentilmente ci ha seguito, ha interagito con noi anche tramite Skype. Non ho capito perché siete andati tutti nella chat di Facebook, però vabbè, la prossima volta cercheremo di essere un po' più ordinati, perché Marco Sappi ci sarà probabilmente una prossima volta. Dai, dillo che è divertente. Sono contento, questa cosa è divertentissimo, perché poi soprattutto ecco, svegliarsi in questo momento stanno invadendo lo studio. Di campo, attenzione. Sono i carabinieri, cioè, che ci vengono a prendere. Non è neanche il gatto, per fortuna, perché il gatto poi non abbiamo paura. No, quella che ultimamente tra l'altro sta diventando pericoloso. Ok, ringraziamo Carlo Pastore, ringraziamo tutti quanti gli amici di Retro Commodore, è stata veramente una bella esperienza, li ringraziamo come abbiamo detto anche in trasmissione, ma soprattutto è giusto forse probabilmente ribadirlo, quanto è prezioso, li ringraziamo per quanto sono preziosi per questo lavoro di ricerca, recupero, anche riparazione, perché permette di perpetuare un po' la memoria di quello di cui noi parliamo spesso, anche se ne parliamo per sentito dire, per libri studiati, per ricerche fatte su internet, senza avere poi spesso la possibilità di visualizzare queste macchine, anche se alcune io le ho avute, quindi, perché io sono molto retro gaming, sono retro uomo. Sì, e quello non è bello da dire, eh? No, sono un uomo retro. Aia. Sentite la voce dell'uomo retro. Sono uomo retro. Ok, ragazzi. Retrosessuale. Il dietro sessuale, lo dicevano su Boris. Boris, ok, l'ictus ovviamente ogni tanto si fa sentire. Quindi, fatto lo vedere, cioè, so. Quindi ringraziamo veramente tutte queste persone, i collezionisti di Retro Commodore, ma così come tutti quanti i collezionisti in generale, perché comunque fanno veramente un grande lavoro. Marco. Sì, ringraziamo tutti, il Fabio, il Carlo, il Massone, il Gigi Massone Flash. Chi è il Massone? L'ingegnere, da quello ha fatto qualcosa di massonico con quell'organo a canne, dai. Cioè. Poi il Gigi Flash, il ragazzo di Castel, vabbè, il ragazzo Umbro. Purtroppo l'ictus è contagioso. È contagioso. Abbiamo scoperto che l'ictus è di forma virale. Si contagia, va nell'aria. Salutiamo anche il mostro di Tetris, che viene citato, insomma. Che lui sì, e tra l'altro inquietante sta cosa, ritorniamo all'intervista di Dan, e lui dice: io conoscevo sta persona che ha comprato Tetris stamattina, dopo 5 minuti era già campione dell'universo. Cioè, io non andrei a di giro una cosa del genere. No. Cioè, beh, comunque è una bella comodità quando vai a mettere i bagagli dentro la macchina, cioè riesci sempre a metterceli. Cioè, questo è utilissimo. Indubbiamente, ma secondo me uno che è talmente cervellotico e genialoide da riuscire a essere supremo capo di Tetris in tutto il mondo, credo che non ha mai alzato una valigia per mettere la macchina. Al massimo lui con i joypad prova. Ma lui ci riuscirebbe. Beh no, vabbè, ma comunque deve essere una follia, insomma, anche se Tetris è un grandissimo gioco, però insomma attenzione che potrebbero arrivare dei black men in black, dei neri in uomini dei neri in uomini oppure l'uomo nero direttamente, insomma, vabbè. Sì, salutiamo anche Gigi Flash, che non è Gigi Flash, caro Andrea Milano, è ma JJ Flash. È JJ Flash, giustamente, okay. Ci tiene. Come JJ Abrams. come Gigi Abrams, esatto. Gigi Abrams. Va bene, ragazzi, speriamo di avervi tenuto compagnia per quello che ci è stato possibile, questo esperimento, insomma, spero vi sia piaciuto. Adesso poi analizzeremo se sarà il caso di proseguire su questa strada oppure no. Conteremo i morti in settimana, quelli che sono tra quelli che hanno visto e quelli che sono arrivati alla fine, qualcuno è morto. Esatto. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, quindi Andrea, Alex, Nino, ovviamente tutti gli altri, insomma, che sono sulla chat e ci stanno ascoltando. Ringraziamo Giuseppe, Professor Jones, Scaletta, che ovviamente non è presente in questa trasmissione per non complicarci troppo la vita. Salutiamo il bambino, lui, eh? Esatto, no, non tireremo mai fuori. Hai girato anche la leva. Salutiamo anche Roberto Zam, Marcus Brodi, Bertoni di Old Games Italia, che è il sito oramai con il quale noi abbiamo legato uno stretto rapporto, quindi è proprio un'alleanza fantastica, tra l'altro. Ormai sono rovinati. Sono rovinati. Ringraziamo quindi tutti quanti, ringraziamo gli ascoltatori di Italian Podcast Network e ci sentiamo ovviamente alla prossima occasione, quando ci sarà modo. Sto perdendo un po' di tempo perché mi ero perso un pulsante che ho finalmente trovato. Ciao a tutti. Ciao. Il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.